Incontri di Gianfranco Fabi. Le note della colonna sonora del film Sideways, In viaggio con Jack di Alexander Payne, è un motivo che si intitola Wine Safari. Iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera al dottor Simon Pietro Felice. Buonasera. Prima di presentarvi il dottor Felice, gli chiediamo come mai questa scelta, Wine Safari, Safari del vino. Ma questa è una delle colonne sonore principali del film Sideways. Come lei ha detto, è un film che negli Stati Uniti ha aumentato il consumo del vino di quasi il 20% l'anno in cui è uscito, e quindi è di buon auspicio per il consumo del vino in tutto il mondo. Quindi possiamo dire che può essere l'inno, il motivo della vostra società, della sua azienda. È così. Amministratore delegato delle Cantine Giordano, è una delle maggiori aziende vinicole italiane. Interessante come esperienza, non solo perché è un produttore di vino, il vino è uno dei punti forti dell'italianità, possiamo dire, ma anche, e vedremo, ce lo spiegherà il dottor Felice, anche perché ha trovato con successo delle formule nuove per vendere delle cose vecchie quanto il mondo, in fondo, come il vino. Ma iniziamo un po' raccontando la storia, direi più di Simon Pietro Felice. Ecco, un nome molto evangelico, un cognome che è molto evocativo, possiamo dire che è felice di cognome e anche felice di fatto, di fare quello che sta facendo. Cerco di esserlo, la ringrazio, e la mia storia è una storia di un consulente di direzione che dopo tanti anni e attraversando anche alcune attività imprenditoriali dove mi sono provato in proprio a costruire un business, ha deciso di andare a gestire ad Alba una delle maggiori cantine produttrici italiane, la Giordano Vini, un lavoro che faccio da 10 anni e che continua a piacermi tantissimo perché il prodotto chiaramente è molto interessante e piace e appassiona tantissimo. Ecco, Giordano Vini, più di 100 anni di storia in questo settore, più di 100 milioni di fatturato. Quanti dipendenti? 450. Quindi siete una delle più grandi, ci sono molte aziende vinicole italiane, soprattutto piccole e medie, che si difendono ovviamente con onore, ma voi siete una delle più grandi. Come ha fatto la Giordano Vini a diventare una delle aziende più grandi? Qui si deve all'intuizione di Ferdinando Giordano, che è tutt'oggi il presidente della società, che in tempi non sospetti, nel 1956, quindi quando la vendita diretta non era sicuramente trendy, prima, molto prima dell'avvento di internet, molto prima della consegna a domicilio, si inventò questa formula. Da una semplice cantina, come tante altre c'erano ad Alba e tutt'oggi esistono, questa formula di vendere direttamente al privato consumatore, andare a contattarlo, allora per lettera, per corrispondenza, per proporre la propria produzione di vini. Ecco, quindi una vendita diretta fatta appunto per corrispondenza, fatta attraverso offerte speciali, offerte particolari, offerte che diciamo un po' irrituali, magari vendendo vini insieme a qualcos'altro. È così. Inizialmente l'offerta era semplicemente il proprio catalogo prodotti. Allora, quando iniziò Ferdinando Giordano, erano circa una decina le referenze, tutte piemontesi, tutte di produzione comunque limitata. Man mano che l'offerta si è arricchita di vini di altre regioni, di altri prodotti, oggi mandiamo ai nostri clienti più delle proposte commerciali complete, che includono a volte anche della gadgettistica, della regalistica, degli oggetti per la tavola o per altro, che portano a casa del consumatore non solo i vini Giordano, ma un'intera esperienza culinaria. Ecco, in questo senso però non è solo una vostra azienda commerciale, ma ha mantenuto la tradizione produttiva, è un'azienda che ha i propri vigneti, che fa la propria vinificazione, che ha i propri prodotti. E come si fa a mantenere la qualità e a fare un prodotto, per così dire, popolare? Questa è la vera sfida, questa è la grandissima sfida. Si può grazie alle tecnologie, che aiutano moltissimo, ai processi produttivi controllati in tutta la filiera, che aiutano i winemaker a seguire non più un solo o due soli vini, ma 10, 20, 100, come nel nostro caso. Noi poi, avendo due unità produttive, una ad Alba e una nel Salento, a Torricella abbiamo bisogno di avere dati in tempo reale da entrambe le cantine. Però è possibile, perché la passione di queste persone comunque è alla fine nel seguire il prodotto con degli stadi di assaggio man mano che esso evolve, e quindi sono in grado di determinare una qualità buona o comunque discreta pur seguendone tanti contemporaneamente. Ecco, magari torniamo tra poco anche alla, appunto, questa caratteristica produttiva, però Giordano è stata un'azienda familiare, adesso che tipo di azienda è, come, diciamo, finanziariamente? È stata un'azienda familiare della famiglia Giordano fino al 2007, dopodiché è stata acquisita da un fondo di private equity italiano che l'ha acquistata in quanto, come ha detto lei, il vino è uno dei prodotti principali della nostra economia, un vero prodotto made in Italy, con l'obiettivo di continuarne l'espansione all'estero come e più di prima. Ecco, questo è anche uno dei punti forti, la possibilità di contare su risorse finanziarie per poter investire, per poter seguire la strada dell'estero. Ecco, in questo senso la Giordano adesso è un'azienda export oriented. Che percentuale di fatturato fa con l'estero? Abbiamo superato il 50%, siamo al 51% nel 2013. Su quali mercati soprattutto? Soprattutto sui mercati europei, la Germania, la Svizzera, l'Austria, l'Inghilterra, la Francia, vendiamo vino ai francesi, un po' come vendere ghiaccio agli eschimesi, e ultimamente sempre di più negli Stati Uniti. Stiamo pian piano colonizzando uno stato alla volta, in quanto lì la legislazione fa sì che ogni stato faccia storia a sé. Ecco, ma anche qui sempre con i metodi di vendita diretta o avete dei metodi che variano da paese a paese? Il modello è sempre lo stesso, vendita diretta. Oggi non è più solo corrispondenza, oggi è corrispondenza, telefono e soprattutto internet, ma l'idea è sempre quella di far arrivare al privato un'offerta di vini ed altri prodotti Giordano con consegna a domicilio in pochi giorni. Ecco, ma ogni paese ha il suo centro di smistamento, il suo centro di raccolta ordine, oppure avete in Italia queste funzioni, per esempio i call center, dove sono? Noi abbiamo soltanto due centri operativi, uno in Italia che serve tutta l'Europa, quindi gli ordini della Germania, dalla Francia, dall'Inghilterra vengono tutti raccolti dai nostri call center in Italia, dislocati su più punti perché abbiamo bisogno di personale che parli diverse lingue. Per esempio il personale che parla tedesco è a Bolzano, in quanto chiaramente si racconta più facilmente. Sì, esatto, così come il personale che parla francese è a Torino. Tutto quanto viene raccolto e gestito dall'Italia, fuorché gli Stati Uniti, che hanno bisogno di due centri logistici, uno a New York e uno nella Napa Valley, necessariamente per la distanza. E anche per problemi di fuso orario, probabilmente, per non far lavorare le persone di notte. Ecco, ma in tutti questi paesi voi vendete vino italiano oppure vi è venuta la tentazione di vendere vino francese e francese? Solo vino italiano. Quindi il Made in Italy in questo senso è ancora un elemento di forza? Assolutamente sì. Ecco, ma in questa prospettiva come va? Come è andato negli ultimi anni il mercato del vino? Ha avuto le difficoltà che hanno avuto altri mercati? C'è sentita la crisi? La gente consuma meno, consuma meglio, consuma vini di più maggior qualità? Come sta andando il mercato del vino? Qui dobbiamo distinguere moltissimo tra Italia, resto Europa e mondo. In Italia il consumo del vino è in calo. È in calo di circa il 5% annuo, è in calo perché le abitudini alimentari sono cambiate, il vino non è più un alimento, è un bene ludico, si consuma sempre meglio, si consuma sempre meno. Quindi come, diciamo, come quantità sta diminuendo, ma come fatturato si difende? Ci si difende, esattamente. All'estero, nel resto dell'Europa, il consumo del vino è in aumento, specialmente nei mercati dove prima si beveva molta birra, adesso si inizia a bere sempre di più vino. C'è però una competizione molto forte dal resto del mondo, perché non dimentichiamoci che l'Italia è uno dei primi e il secondo produttore di vino al mondo, ma ce ne sono tanti altri molto agguerriti. Diverso ancora fuori dall'Italia, nel Far East e negli Stati Uniti, dove invece il consumo è nettamente in crescita, però c'è una domanda di vino locale molto alta. Gli americani bevono per il 40% vino californiano e da qui non si riesce a farli cambiare idea. Beh, il vino californiano l'avrà assaggiato, ma si difende come qualità rispetto ai vini italiani? Adesso non ci sentono gli americani, quindi può dirlo con franchezza. Si difende, sono vini molto più strutturati, molto più costruiti, molto più fabbricati, molto meno genuini dei nostri, però comunque alla fine hanno dei gusti e dei profumi che ritrovano più o meno gli stessi nostri. Anche perché molti coltivatori californiani magari sono emigrati di seconda o terza generazione dall'Italia, hanno portato un po' di know-how da quelle parti, dall'Italia o anche dalla Francia, che hanno impiantato vigneti in California. E non solo, ultimamente i nostri migliori enologi, i nostri migliori winemaker e le migliori aziende produttrici di tecnologia enologica vanno a lavorare per americani, cinesi, giapponesi, russi. Beh, questo è se si allarga il mercato può essere un fatto positivo, indubbiamente, ma tornando un po' alla qualità, del vino italiano negli ultimi anni, negli ultimi decenni c'è stata una crescita della qualità. Come è stata possibile questa crescita della qualità anche per cercare di andare sul mercato con qualcosa che rispondesse di più alle esigenze di un mercato sicuramente un po' più sofisticato del passato? I fenomeni sono stati due, i principali. Il primo è stata la crisi del metanolo, che tutti ricordiamo, certo. E me, che ha creato l'evidenza che tanti produttori non agivano secondo i disciplinari, non si attenevano alle regole, e quel mondo è sparito fortunatamente, quindi la qualità è migliorata già di per sé. Dopodiché c'è un secondo fenomeno che è iniziato all'inizio degli anni 2000, dove tante persone hanno iniziato a seguire corsi di degustazione, corsi per sommelier, girano per cantine, quindi si sono acculturati rispetto ai sentori, ai profumi, certo, e anche alla storia di ciascun vino. Il vino è diventato non più solo una bevanda, ma anche un modo di essere, un modo di vivere, un modo di mettersi in relazione. Incontri. Ancora con le note di Wine Safari, dalla colonna sonora del film Sideways, riprendiamo il nostro incontro di questa sera con Simon Pietro Felice, amministratore delegato delle Cantine Giordano. Abbiamo parlato nella prima parte della crescita di questa azienda, ormai più centenaria, diventata una delle più grandi aziende produttive e commerciali italiane sul fronte del vino, e parlavamo appunto con il dottor Felice di come sono cambiato un po' il modo di consumare e anche di acquistare il vino che da bevanda che accompagnava normalmente i pasti è diventato un po' un modo di vivere in cui se ne consuma un po' meno, si bada un po' di più alla qualità, si cerca anche qualcosa di particolare. Ecco, in questo un produttore come si difende, o anzi come attacca il mercato? Un produttore che punta appunto sia sulla qualità sia sui numeri, sul fatto di dover vendere anche delle grosse quantità di vini. Oggi più che mai bisogna lavorare di marketing, perché come ha detto lei il vino è diventato un prodotto aspirazionale, quindi bisogna comprendere le aspirazioni dei clienti che lo andranno a comprare e consumare, e le aspirazioni a volte non sono più quelle semplicemente di avere un vino col proprio pasto, ma sono quelle di atteggiarsi in qualche maniera con i propri amici o di invitare le persone di casa ad un evento per assaggiare qualcosa di particolare. Questo fatto ha completamente cambiato il mondo del vino, quindi non bisogna più partire dal prodotto soltanto, ma a partire da ciò che vuole il consumatore, che è molto diverso a seconda dell'età, della regione, della nazione e soprattutto anche dalla provenienza, perché chi proviene da certi ceti avrà certi bisogni, chi proviene da altri ne avrà di diversi. Ecco, lei accennava nella prima parte al famoso scandalo del metanolo di qualche decennio fa. Ormai possiamo dire che l'industria italiana ha completamente superato questa fase, ormai sia per i controlli sia per la responsabilità delle imprese la produzione italiana è affidabile al 99,9%. Quindi in questa prospettiva che cosa può fare un'azienda proprio per garantire la qualità dei propri prodotti? Per garantire la qualità dei propri prodotti bisogna avere oggi una grande esperienza di cantina. Servono degli enologi, degli enotecnici, dei winemaker preparati, perché non c'è più improvvisazione come poteva esserci anni fa. Bisogna conoscere tutta la storia e il ciclo del prodotto, bisogna controllare bene le uve, bisogna essere certi che vengano fatte le lavorazioni adeguate. Oggi l'improvvisazione non è più ammessa. Ecco, ma in questa prospettiva c'è anche della tecnologia aggiuntiva, delle novità dal punto di vista proprio direi tecnologico, che aiutano l'enologo a fare il proprio dovere. È cambiato il modo di produzione, oppure, dicevo prima, il vino è antico quanto il mondo, insomma, ma negli ultimi decenni la tecnologia si è evoluta in tanti settori, si è evoluta anche nel modo di produrre il vino? Assolutamente sì, c'è sempre una parte di produzione che è l'affinamento in botte o in barrique, che è rimasta tal quale. Quella parte non ha avuto dei cambiamenti tecnologici, anche perché non ce n'è bisogno, basta avere delle buone barrique, delle buone botti e del buon vino di partenza. Ma tutta la parte precedente è molto cambiata e permette soprattutto di avere un vino che è qualitativamente adeguato nel tempo, non più solo la buona annata, ma un buon barbera ad Asti costantemente buono nel tempo. Ecco, premesso che non bisogna mai chiedere all'oste se il vino è buono, quindi perché la risposta è scontata, però ci si può fidare delle denominazioni di origine, di questi marchi di qualità? Ci si può fidare, in realtà questi di per sé non sono un indice di qualità. Lei pensi che i Super Tuscan non sono delle DOC, sono degli IGT o a volte dei vini da tavola. A volte i migliori vini non sono necessariamente a denominazione. È chiaro che la denominazione protegge molto il consumatore che vuole un particolare tipo di vino sul fatto che sia quello proveniente da quell'uva e non altro. Ecco, ma in questa prospettiva il riconoscimento di una documentazione di origine poi garantisce anche il mantenimento della qualità del vino nel tempo? Questo dipende dai produttori. Questo dipende dai produttori, se lo chiede alle cantine Giordano le risponderei di sì, ma le dico anche il perché. Nel momento che Giordano propone una DOC nuova, fa in modo che essa sia stabile a livello qualitativo nel tempo, perché il consumatore che si avvicina a un prodotto Giordano rispetto a qualunque altro produttore desidera ritrovare lo stesso prodotto nel tempo. Quindi partendo dalle stesse uve, partendo con gli stessi metodi produttivi, si ottiene un prodotto che rimane buono e costante nel tempo. Ecco, quanti tipi di vino vendete come Cantina Giordano? 150. Quindi 150, ecco, ma in questo non diluisce, non annacqua, mi permetta la parola, un po' il senso dell'immagine della qualità del prodotto. Di solito c'è un riconoscimento tra l'azienda e un tipo di vino, un'azienda specializzata nel Barolo, un'altra può essere specializzata nella Malvasia, ecco, ma questo essere diversificati, in fondo comprendete tutti i vini italiani. Ecco. La maggior parte. Come fate a rendere forte l'immagine del vino tipico, del vino di una specifica qualità? Guardi, qui abbiamo deciso di adottare in realtà una strategia che è tipica dei paesi anglosassoni. Le maggiori cantine al mondo sono anglosassoni e producono ogni tipologia di vino. Cioè il bravo produttore di vino all'estero si fregia del fatto che sa fare buoni tutti i tipi di vino. In Italia la cultura è diversa, in Italia ci sono produttori che producono solo 3 o 4 referenze, vanno fieri di esse e continuano a produrre solo quello senza mai crearsi delle sfide su altre tipologie. La Giordano, essendo un'azienda che vende all'estero e dovrà crescere nel tempo con l'estero, si deve comparare con la Mondavi, con la Yellowtail australiana, con la Vesco tedesca, e queste producono tutte le tipologie di vino. Quindi ecco, è un modello di business differente, modelli di business che possono avere entrambi, come auguriamo, successo indubbiamente. Ecco, in questa prospettiva diceva che molto della crescita è dovuta appunto a questo sistema di vendita diretta che si è implementata negli ultimi anni con internet. Vi ha complicato un po' la vita o ve l'ha facilitata il fatto di avere internet? Ha aumentato sicuramente le potenzialità, ma ha aumentato anche la concorrenza. Assolutamente, assolutamente. Premesso che la concorrenza fa sempre bene, perché allarga il mercato e crea nuove sfide con cui cimentarsi. Internet è stata per noi una naturale evoluzione del nostro modello di business, perché la vendita per corrispondenza, ovvero l'ottenimento di un ordine da remoto e la consegna a domicilio di un cliente, non è altro che internet prima dell'era della connettività. Oggi l'ordine arriva tramite il web, la consegna è traccata, c'è il tracking online che permette di sapere in ogni istante dov'è, ma la modalità è la stessa. Quindi per noi ha solo facilitato l'accesso verso il nostro cliente abituale e l'acquisizione di clienti nuovi. Quanta parte, che percentuale copre la vendita su internet adesso? Oggi circa il 30% dei nostri ordini arrivano via web. Sia in Italia sia all'estero? Un po' più all'estero che in Italia. Ecco, in questa prospettiva avete in mente qualche effetto speciale dei prossimi anni, qualche allargamento dell'attività? Giordano produce per esempio altri prodotti alimentari, c'è qualche prodotto in particolare che pensate possa avere un successo, non dico per diventare alternativo, ma complementare rispetto alla vendita tradizionale di vino? In realtà già internet ha aiutato anche a creare il vino stesso più interattivo. Per esempio oggi noi accettiamo che i nostri clienti ci invino una foto dei loro nipotini, del loro coniuge, noi gliela stampiamo, facciamo l'etichetta, l'applichiamo al vino e gliela rispediamo. Quindi vino personalizzato. Casa. Vino personalizzato, chiaramente. Per certe occasioni non è il vino che si consuma tutti i giorni, ma questo è reso possibile da internet, cosa che prima chiaramente con la corrispondenza non era. Internet però ci ha molto aiutato, specialmente all'estero, ad allargare la nostra gamma. Oggi noi vendiamo anche olio, prodotti alimentari e caffè, specialmente ai tedeschi, agli inglesi, agli americani, perché quello che in realtà vogliono da noi è il Made in Italy. Ecco, il Made in Italy è ancora un elemento vincente, ancora un elemento che può fare la differenza. Come puntare sul Made in Italy per farlo diventare un elemento veramente concorrenziale? Il Made in Italy è assolutamente l'argomento vincente oggi. Per farlo diventare sempre di più efficace servirebbe un po' più di sistema paese. Tutte le volte che il nostro paese non dà una buona immagine di sé all'estero, questo si ripercuote nell'immagine anche dei prodotti Made in Italy che noi vendiamo, e questo noi lo vediamo quasi immediatamente quando succede qualche cosa. Anche perché c'è un fenomeno un po' di copia dei prodotti italiani, di falsificazione, di mistificazione dei prodotti italiani. Siete stati vittima di qualche caso particolare in cui magari Giordano viene scritto con la U invece che con la O per cercare di vendere con la vostra immagine? È vero questo, Giordano è il vino più venduto in Cina, purtroppo non è fatto da noi, è fatto da un'azienda che ha un marchio Giordano che usava per il test l'abbigliamento, che ha semplicemente appiccicato le etichette. Questo purtroppo, difendersi da soli contro questo genere di contraffazione è molto difficile. Ecco, Simon Pietro Felice, amministratore delegato delle Cantine Giordano, ci stiamo avviando verso la conclusione. Guardando un po' in avanti, quale obiettivo si può porre a medio termine per lei e per la sua azienda? Innanzitutto c'è l'Expo 2015, che per noi sarà una grande occasione per presentarci al mondo a casa nostra. Traguardando oltre, io vorrei tanto che la Giordano Vini fosse presto la prima azienda di vino italiana quotata in borsa, perché purtroppo oggi non abbiamo aziende di vino quotate. Quindi questo è un auspicio, una promessa, una notizia? È un auspicio. È un auspicio, quindi non possiamo ancora darla come notizia, però ecco, anche se un fondo di private equity, come è avvenuto, entra in un'azienda, è certamente per svilupparla, ma anche per raccoglierne i frutti e magari per fare una vendemmia finanziaria, possiamo chiamarla così. Possiamo chiamarla così. Quindi concludiamo questo nostro incontro con il dottor Simon Pietro Felice, e allora, in prospettiva, diciamo, per lei come persona, guardando un po' anche al passato, pensa di poter restare in questa azienda e di fare ulteriori passi avanti in un'azienda quotata in borsa? Io, finché sentirò che do valore a questa azienda e riesco a indirizzarla verso mercati nuovi, nuovi successi, sarò solo Se non si occupasse di vino, di cosa si vorrebbe occupare? Di berlo, di assaggiarlo. Quindi ecco, comunque ormai ha l'habitus di chi lavora in aziende di vini, difende molto bene la sua immagine e anche il fatto appunto che il vino, con cautela, ma è sicuramente una cosa che rappresenta anche l'italianità, un modo di vivere, un modo di essere felici di fatto oltre che di nome. Possiamo dire così. Possiamo dire così. Grazie mille, grazie a Simon Pietro Felice di essere stato con noi questa sera, amministratore delegato delle Cantine Giordano. Ringrazio anche Paolo Corleoni in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona serata.